Ciao a tutte e tutti, questa è la prima puntata della nuova trasmissione della Coordinamenta Femminista e Lesbica che si chiama I Nomi delle Cose. L'abbiamo chiamata I Nomi delle Cose perché pensiamo sia molto importante chiamare le cose con il loro nome, soprattutto in questo momento in cui il linguaggio è stato completamente snaturato e le parole vengono usate con significati che non corrispondono più al loro uso e alla loro storia. E questo serve per contrabbandare uno stravolgimento politico e sociale, una lenta assuefazione allo stravolgimento dei termini, e quindi noi vorremmo provare a leggere la realtà e le cose per quello che sono e cercheremo di farlo con una chiave di lettura di genere che si intrecci con la lettura di classe. Insomma, lettura femminista perché riteniamo che sia uno strumento formidabile di liberazione. Gone to the other side with my hands like a BBL. There must have paid her a nice price. She's putting on a string to be love. This is not really. Rosa Luxemburg diceva che il mondo si comincia a cambiare chiamando le cose con il loro nome. Allora, cominciavo col raccontarvi chi siamo noi come Coordinamenta. È una rete di collettivi e singole che ha incominciato a vedersi quasi 2 anni fa ormai e che ha tenuto insieme, è stato un incontro tra percorsi molto diversificati tra loro. Alcuni dei collettivi hanno una base territoriale, hanno cercato di fare intervento nel loro quartiere sulle tematiche della violenza e del rapporto tra i sessi in genere, altre si sono cimentate in percorsi sul lavoro e una lettura del mondo del lavoro dal punto di vista delle donne e dell'oppressione di genere istituzionale che passa attraverso quei canali. E altre ancora hanno intrapreso dei percorsi contro le politiche securitarie e le istituzioni totali come i CIE, appunto affrontando questa doppia discriminazione, questa doppia oppressione che le donne vivono anche in quei luoghi. A margine, in una recente intervista del 15 settembre, Angela Davis dice: io vedo il femminismo come un modo per comprendere l'interconnessione di genere, razza, classe, sessualità, economia, transnazionalismo. Il femminismo è non solo diritti delle donne, ma una delle strategie più importanti per aiutarci a capire le questioni che ho nominato e le maniere in cui esse sono legate l'una all'altra. Allora, volevamo incominciare a parlarvi anche del nostro rapporto con la radio. Questa è la prima trasmissione, la prima esperienza per molte di noi e diciamo vorremmo, una delle caratteristiche di questa radio, che è una radio libera, è il rapporto costante che si tiene tra il lavoro redazionale e di approfondimento teorico che c'è dietro e anche però le realtà e i percorsi reali che lottano all'interno del quotidiano. Quindi sia un megafono dei percorsi che prendono parola sui rapporti di forza che viviamo come individui e come soggettività politiche e sociali, ma è anche un momento per collegare la pratica e la teoria. Pensiamo cioè che proprio perché pensiero e azione hanno temporalità diverse, vanno sempre tenute in una relazione dinamica tra loro, che costituisce una messa a verifica della capacità di confliggere realmente a partire da date premesse teoriche. Quindi in questo la radio è uno strumento molto potente, consente di aprire questo spazio, dialogare su ciò che si è messo in campo nel proprio agire politico e allo stesso tempo appunto analizzarlo alla luce delle sue premesse teoriche. E quindi lo spazio di questa trasmissione vorrebbe diciamo farsi stimolo e raccogliere gli stimoli che arrivano dall'esterno e per questo la coordinamento e i collettivi che ne fanno parte continueranno a portare avanti i loro percorsi territoriali e non, cercando di mantenere questo collegamento. Volevamo spiegarvi come avevamo pensato di strutturare la trasmissione. La prima mezz'ora sarà dedicata all'analisi e al commento di alcuni fatti che sono accaduti durante la settimana e che riteniamo di particolare rilievo. Alla fine della prima mezz'ora, quindi intorno alle 8:30, ci sarà la parentesi di Elisabetta, dove appunto sarà uno spazio di analisi e di riflessione teorica femminista, e questo spazio aprirà la seconda parte della trasmissione, la seconda mezz'ora, e che sarà invece dedicata a un approfondimento che sarà ogni volta diverso, e gli argomenti che tratteremo in questa parte di approfondimento riguarderanno il lavoro e il rapporto tra comunismo e femminismo, anarchia e femminismo. Ci piacerebbe poi fare un'analisi su quello che è la medicalizzazione, su cosa significa emancipazione e che cos'è invece il femminismo come percorso di liberazione. Pensavamo poi di fare anche una rubrica su una cantante, un artista, una scrittrice, e quindi poi prendere spunto dalla vita e le di un artista per poi approfondire anche il contenuto delle loro opere. E per questa settimana pensavamo di, visto che proprio il percorso della coordinamenta nasce sul una riflessione su quello che è la violenza, volevamo quindi ripartire da quello che è stato il nostro inizio, e quindi la seconda parte della trasmissione sarà dedicata al tema della violenza. Possiamo iniziare quindi con gli argomenti che abbiamo scelto di approfondire per questa settimana. Allora, la prima notizia che abbiamo scelto di approfondire risale a domenica 23 settembre ed è parla appunto di due musicisti del gruppo Yorum, un gruppo turco, che sono state torturate dalla polizia. Alcuni giorni fa la polizia ha arrestato e torturato due musicisti del gruppo Yorum, nota band della sinistra radicale turca. Sono state arrestate e torturate dalle forze di sicurezza di Ankara, che da tempo perseguitano i componenti della band molto attiva a fianco dei movimenti che contestano il regime nazionalista islamico di Erdogan. Il loro avvocato ha riferito che la violinista Selma Altin e la cantante Egi Dilan Balci sono state arrestate venerdì 14 ad Istanbul insieme ad altre 25 persone che stavano manifestando nei pressi dell'istituto forense per reclamare la restituzione del corpo di un giovane che l'11 settembre si era fatto esplodere davanti a una stazione di polizia. Le due donne sono state torturate fin dal momento del loro arresto, ha detto all'agenzia francese Press l'avvocato Taylan Tanay. Gli agenti dell'antiterrorismo di Istanbul hanno consapevolmente rotto il timpano di un orecchio della cantante del gruppo Selma Altin e rotto il braccio della violinista. Le due donne sono state ripetutamente percosse e le lesioni sono state procurate loro intenzionalmente, ha dovuto ammettere l'edizione online del quotidiano turco Hurriyet. Sono state ammanettate, costrette a stendersi per terra e picchiate da molti agenti per diversi minuti. Le torture sono poi continuate in macchina. Gli agenti sapevano che Altin era la cantante del gruppo e le hanno rotto intenzionalmente il timpano, picchiandola ripetutamente sulle orecchie, ha denunciato l'avvocato. Fondato nel 1985 da quattro studenti dell'Università di Marmara, il gruppo Yorum è famoso in Turchia e all'estero per le sue canzoni rivoluzionarie. Allora, questa è la canzone che abbiamo sentito prima, sono appunto canzoni di questo gruppo Yorum, o Yorum forse, non siamo sicuri, e anche comunque le altre canzoni di questa prima parte sono comunque le dedichiamo insomma a queste due artiste che si fanno della loro arte comunque un mezzo per esprimere delle idee, quindi... Diciamo che questa notizia apre scenari di commento particolarmente importanti, se non altro per un motivo, perché ci accorgiamo che intorno alla loro vicenda c'è un silenzio assordante e la prima cosa che ci viene spontanea è chiederci perché. Intorno ad altre vicende che hanno che prendevano in considerazione situazioni non dico simili ma anche molto più soft, il tam-tam mediatico è stato molto forte e molto generalizzato. Invece rispetto a un fatto di questo tipo molto grave, soprattutto perché la violenza agita sulle donne assume sempre dei connotati particolari, soprattutto da parte delle forze dell'ordine, perché le donne vengono sempre considerate poi soggetti deboli, facilmente condizionabili, facilmente ricattabili, e non a caso sono state arrestate loro due che sono le componenti femminili del gruppo. Comunque, e poi oltretutto la polizia è sempre la polizia che ha agito in piena consapevolezza, perché le torture sono state assolutamente mirate rispetto a quelli che ha considerato gli strumenti del loro impegno politico, cioè la voce, quindi le orecchie, il sentire, le mani della violinista. Comunque il fatto più importante, comunque, che noi volevamo stigmatizzare è proprio il trattamento diverso che di solito hanno situazioni simili o comunque molto vicine come possibile lettura rispetto non solo al tam-tam mediatico dei media mainstream da cui ci aspettiamo di tutto di più, ma anche questo tipo di atteggiamento purtroppo passa all'interno di tutta una serie di componenti anche del mondo femminista. Quindi noi saremo sempre qui a denunciare tutte quelle che, pur non essendo, non appartenendo a paesi, a stati, a situazioni che sono allineate all'Occidente e che quindi, cioè pur appartenendo a situazioni, a stati, a paesi che non hanno riscontro mediatico perché sono allineate all'Occidente, quindi nessuno qui delle componenti istituzionali e para-istituzionali ha intenzione di rendere pubbliche, noi saremo sempre dalla parte di questi. La Turchia, ricordiamoci sempre, che è uno stato super allineato all'Occidente e che quindi tutto quello che succede in Turchia e tutto quello che la Turchia fa anche nei confronti delle minoranze viene troppo spesso sottaciuto. And I dreamed I saw the bombers riding shotgun in the sky, and they were turning in to butterflies above our nation. We are stardust, billion year old carbon. We are golden, caught in the devil's bargain, and we got to get ourselves back to the Allora, io invece vi volevo parlare, in realtà tramite le parole di una compagna che ha partecipato al Feminist Blog Camp della settimana scorsa, lo scorso weekend, e purtroppo non è potuta essere presente oggi in radio, però ci ha mandato questo contributo scritto e noi volevamo leggervene una parte perché insomma ci era piaciuto molto la sua lettura di questo evento, insomma, che è la seconda volta che viene fatto. L'anno scorso è stato a Torino, quest'anno a Livorno. E vi leggo: è stata davvero un'esperienza bellina e personalmente mi ha arricchito un sacco, mi ha anche fornito un sacco di spunti e strumenti di analisi su vari temi che stavo già approfondendo per conto mio: sex work, antispecismo, eccetera. o strumenti di decostruzione per cose brutte che necessitano smascheramento. Io ho potuto stringere legami con nuove compagne e rafforzarne con quelle già conosciute e tante belle cose. Ciò è stato fantastico e poi parliamoci chiaro, passare 3 giorni a fare tornei di biliardino femminista, dibattendo ferocemente, assaporando le specialità vegane locali e innamorarsi delle compagne cosentine che sono di un battagliere allucinante è praticamente l'equivalente terreno di un paradiso terrestre. Veniamo al lato tragico delle cose. Al Feminist Blog Camp mi è emerso in maniera chiara ed ovvia che quello che noi chiamiamo movimento femminista in Italia è spaccato in più o meno in queste aree. Femminismo radicale, ossia anarcofemminismo, femminismo marxista, transfemminismo, queer, antispecismo femminista e in generale tutte coloro che riconoscono l'intersezionalità delle lotte e tutto ciò che è affine e, o analogo a ciò che ha già elencato. Femminismo su un piede su 2 staffe. Non credo necessiti di descrizioni, è l'anello di congiunzione tra il femminismo e lo stato di cose presenti. Scusatemi l'estremismo, sto vivendo un momento a metà tra una gioiosa estasi mistica e una rabbia allucinante che non riesco proprio a stoppare. Purtroppo in questo possiamo trovare compagni in buona fede e compagne in malafede. Pseudofemminismo, le socialdemocratiche, a sua volta diviso tra area sinistroide e area dichiaratamente fascistoide. L'area fascistoide non ci interessa particolarmente se non per bastonarla, ma politicamente, ma intendo soffermarmi su quella sinistroide a cui mi riferirò con l'acronimo PDS. Pseudofemminismo di sinistra, per poter descrivere più sinteticamente possibile. Il PDS ha fatto la sua comparsata all'interno del Feminist Bloc Camp, come era prevedibile che fosse. Me lo aspettavo e ne ho avuto conferma. Si è fatto portatore di posizioni assurde sul sex work in particolare. Vorrei pregarvi di fare attenzione, perché in questo periodo stanno portando avanti le spedizioni di truppe cammellate per fare un'operazione di ricomposizione del PDS, femminismo socialdemocratico, e nell'intanto programmatico di ricomposizione c'è la pretesa di assimilare l'area radicale, la nostra, e normalizzarla entro i loro limiti. Questo è il motivo per cui si trovavano al Feminist Blog Camp e la rassegna blog conferma tutto ulteriormente. Nello specifico hanno capito che il Feminist Blog Camp ha un po' raccolto un sacco di sfaccettature del femminismo radicale e in pratica vogliono trovare potenziali o già tali piedi su 2 staffe per sfondare il fronte e stabilire che il femminismo è uno monolitico e soprattutto è il loro, senza eccezioni. Come riconoscerle? Bene, allora, innanzitutto, loro per quanto riguarda i sessismi la buttano in caciara con una generica conflittualità, guerra fra generi e fanno essenzialismo biologico ovunque. Il patriarcato non è una forma di autoritarismo, ma questione genetica. Idem per quanto riguarda ogni altra oppressione. Affrontano ogni nuova forma e pratica di femminismi, slut walk, post porno, antispecismo, eccetera, con un chiaro e deciso no, e si rifiutano di rifletterci su, perché ovviamente le metterebbero da parte in un batter d'occhio, assieme al loro puritanesimo, moralismo. Per comodità e brevità, d'ora in poi, le chiameremo pari opportuniste, termine meraviglioso che ho sentito usare da una compagna al Feminist Blog Camp. La loro intenzione in questo preciso momento è di cercare di connettere il Feminist Blog Camp e Pestum utilizzando questo legame del tutto inesistente come trampolino mediatico per dire stiamo tutti insieme e non famo caciara, ciarlando di un presunto rispetto fra varie aree, dimenticando che loro sono le prime a non rispettare dal momento che vogliono cooptarci tutte e tutte e farsi belle. For the times that I told you lies, for the times that I watched and let you stumble. It's too bad, but that's me. What goes around comes around, you'll see that I can carry. Hanging around my neck, say, but it adesso vi leggeremo invece un'altra notizia. Incinta al nono mese, lasciata dal fidanzato, lo sfigura con l'acido muriatico. Lei, incinta al nono mese, non accettava di essere stata lasciata dal futuro padre di suo figlio, un 26enne di travagliato. E ha deciso di dargli una lezione che lasciasse il segno, sfigurandolo per sempre con dell'acido muriatico, con l'aiuto di un amico di 21 anni più vecchio di lei. Teatro della vicenda scioccante è un piccolo paese della bassa bresciana, Travagliato. Stando alle informazioni rilasciate in conferenza stampa, Elena e William hanno convissuto per un anno e mezzo a Travagliato, finché lui a luglio ha detto basta, dubitando anche della paternità del figlio che la sua compagna porta in grembo. Allora, alcuni hanno detto che si tratta di un atto di terribile violenza e hanno condannato la donna. Altri hanno detto che la tradiva, la maltrattava, che l'aveva lasciata con un figlio in grembo. Altri che quando è una donna a fare violenza tutti si stupiscono perché la norma è il contrario. Noi vorremmo affrontare il problema sfuggendo a facili moralismi, a scontati giudizi, difese di parte, ma cercando di capire il perché. Siamo sempre convinte che le manifestazioni culturali, sociali, quelle cosiddette etiche, così come i rapporti tra gli esseri umani, siano determinati dalle condizioni socio-economiche della società in cui si vive. Quindi, una ragazza di 23 anni, laureata, ritiene devastante essere lasciata dal compagno e, incinta, ritiene devastante che suo compagno metta in discussione la paternità del figlio. Questo significa che per lei la figura maschile è fondamentale, che il perno attorno a cui ruota la sua maternità è l'approvazione e il riconoscimento del compagno, che lei non vale per sé ma in quanto parte della coppia. Tutto questo ha una legittimazione nella forte riproposizione dei ruoli maschili e femminili che la società neoliberista porta avanti, con la riaffermazione di valori come quello della verginità, con l'esaltazione del ruolo materno. Il neoliberismo è metabolismo sociale e si infila e condiziona in ogni interstizio della nostra vita, e la risposta a questo tipo di fatti può essere sempre e comunque l'assunzione da parte delle donne dell'autonomia e dell'autodeterminazione nelle scelte. People gonna rise up, get theirs, yeah. Poor people gonna rise up and take what's theirs. Don't you know you better? Rispetto a questa notizia che è stata appena data di appunto questa ragazza di Brescia che ha buttato dell'acido sul corpo del proprio ex compagno, ricollegandomi a quello appunto che Elisabetta diceva prima, volevamo in realtà darvi uno spunto, una lettura in realtà che ci sembra quella che noi auspichiamo potesse essere quella che possano condividere tutti, una visione di una coppia, dell'amore, che non sia quella in cui la coppia è un unicum in cui ci si relaziona semplicemente perché la società ci dice che dobbiamo creare questa famiglia, in cui noi eliminiamo tutte le nostre caratteristiche, tutte le nostre particolarità, il nostro essere donne, il nostro essere differenti, e legandole a un vassallaggio nei confronti di questo amore stabilito, che è semplicemente una costruzione sociale. Rispetto a questo volevo leggervi appunto un pezzo di Alexandra Kollontai su Largo all'Eros Salato, che mi sembra un po' quello che noi vorremmo fosse in realtà l'amore. A maggior ragione l'ideologia della classe operaia deve tener conto dell'importanza dell'emozione d'amore in quanto fattore che può essere utilizzato, al pari di qualsiasi altro fenomeno psicosociologico, per il bene della collettività. Che l'amore non sia affatto un fenomeno privato, una semplice storia tra due cuori che si amano, che racchiude in sé un principio di coesione prezioso per la collettività, è dimostrato dal fatto che l'umanità, in tutte le tappe del suo sviluppo storico, ha dettato delle norme per determinare come e quando l'amore doveva considerarsi legittimo, rispondente cioè agli interessi della collettività del momento, e quando invece doveva considerarsi colpevole, criminale, cioè in conflitto con gli obiettivi posti dalla società. You cry the long night through. Well, you can cry me a river, cry river. I cried a river over you. La parentesi di Elisabetta. Ciao a tutte. Memoria collettiva. L'area della comunicazione sociale è l'area della vita sociale. Sul terreno sociale, l'esistenza di un evento è strettamente legata al suo essere comunicato. Gli avvenimenti esistono quanto e in quanto vengono comunicati. La prima scelta che il capitale fa è di dare o di non dare comunicazione di un evento, e in questo ci agevola il compito perché ci dice dove quell'evento è collocato. Successivamente avvelena l'informazione con la simulazione e la manipolazione, ed ancora con la selezione di tutti i testi e con la conseguente rimozione di quelli che entrano in contraddizione antagonistica con l'ideologia ufficiale. È la trasformazione dei fatti accompagnata dalla selezione, per cui certi elementi vengono tradotti in testo ed altri, tramite la voluta dimenticanza, dichiarati inesistenti. L'usura del tempo non c'entra con il fatto che una catena di eventi venga ad essere rimossa dalla memoria collettiva. La causa e i processi di dimenticanza e di oblio sono voluti e perseguiti attraverso la falsificazione dell'esperienza storica, la produzione di ricordi sostitutivi, la codificazione fuorviante e fraudolenta. In definitiva, un far sapere diverso, la falsificazione di un evento, la sua rimozione e o sostituzione. Si parla di un evento trasgressore non per rappresentarlo, ma per farlo esistere come elemento di legittimazione del potere. In tal modo esso è taciuto per quanto riguarda il contenuto liberatorio e rivoluzionario e parlato per giustificarne lo stravolgimento e assorbimento quando non la repressione. In luogo del non far sapere si sceglie di far sapere ciò che legittima il potere e pertanto funziona come strategia di controllo sociale. La produzione di falsificazioni, mentre dissimula eventi sociali reali, ne propone una rimodellizzazione falsa. È vera e propria controrivoluzione che si svolge e si pratica sul terreno dei linguaggi. Le reti della comunicazione sociale si trasformano in un'occasione di scontro e la posta in gioco è la memoria di un genere, di una classe, di un'etnia. L'esperienza passata condiziona quella futura e dunque si configura come un codice dell'attività riproduttrice e pertanto la declinazione e la traduzione della memoria collettiva assumono una grande importanza. Per questo si tende a legittimare quei comportamenti del passato che non entrano in contraddizione con gli interessi di conservazione della società patriarcale e capitalista. Per questo è necessario conquistare una memoria autonoma e collettiva della trasgressione femminista. Se la produzione semiotica della borghesia si serve dell'inibizione della reminiscenza, della distruzione della memoria, della simulazione per controllare la coscienza e i comportamenti delle donne, queste ultime non possono non rifiutare il carattere feticcio ed alienato della memoria dell'ideologia vincente ed elaborare una memoria collettiva e sociale della loro identità rivoluzionaria e liberatrice. La memoria è l'occasione per produrre nuove possibilità e dare un senso agli eventi presenti e futuri. La memoria del movimento femminista non edifica monumenti a sua gloria, ma ha un carattere decisamente creativo, vive nella dialettica e nella dialettica si alimenta e si espande. Non teme la pluralità dei linguaggi, né il loro proliferare, bensì la loro assenza e la lettura e l'interpretazione che le missionarie del verbo borghese fanno, riducendo tutto nell'alveo di questa società e della sua conservazione, producendo in questo modo un'esclusione a priori, condannando all'oblio tutti quegli aspetti dell'esperienza storica e sociale del femminismo che erano legati ad un'ipotesi di superamento della società patriarcale borghese. Non è da questa lettura meramente ed esclusivamente emancipatoria, non è da un assordante sgomitare per ottenere posti di comando e per fare carriera che possiamo aspettarci la nostra liberazione. Il femminismo non può abbandonare mai la lotta di liberazione, che è possibilità di comunicare, di dare voce a tutte le lotte del presente come del passato e alle loro ragioni. È portare fuori ogni lotta dall'ambito riduttivamente femminile, è vanificare così tutti i tentativi di ghettizzazione, è smascheramento dei codici linguistici del potere che costituiscono la rete essenziale del controllo sociale, è la capacità di investire tutti gli aspetti della vita, dal lavoro all'eros, dai sogni ai linguaggi quotidiani, dalla politica all'arte, è rivoluzione totale. Ciao. Very much, ladies and gentlemen. I have a request to sing a song. It was written especially for me. It's titled Strange Fruit. Allora, dopo la parentesi di Elisabetta, si aprirebbe la seconda parte della trasmissione, che abbiamo detto sarà dedicata con varie rubriche di approfondimento. Quest'oggi, visto che era la prima puntata e quindi abbiamo iniziato un po' in ritardo, perché ci scuserete ma dobbiamo prendere la mano con questi strumenti della tecnica, e quindi non abbiamo modo, avremmo voluto parlarvi di violenza di genere, perché è stata la riflessione che ha nutrito il nostro percorso nell'ultimo anno, però appunto abbiamo i tempi stretti e quindi vi lanciamo semplicemente degli spunti da cui siamo partite nelle nostre riflessioni. E cioè possiamo partire insomma da quello che abbiamo cercato, il modo in cui abbiamo cercato di definire che cos'è la violenza, come intendiamo la violenza di genere. E appunto diciamo che la violenza di genere abbiamo cercato di indagarla non soltanto negli effetti e nelle manifestazioni che poi ha, ma proprio nelle sue ragioni strutturali, le ragioni strutturali che sono causa della violenza di genere. Comunque l'abbiamo definita quindi a partire dalla funzionalità che assolve nel mantenimento di questo sistema di potere. E quindi abbiamo inteso con violenza di genere la violenza sessuale, fisica, economica, verbale, psicologica, fino al femminicidio del maschio sulla femmina, ma abbiamo inteso anche la violenza esercitata in senso lato dal maschio, vale a dire anche dalle istituzioni o dalle altre donne nella logica patriarcale. Tale logica difende e perpetua un sistema sociale nel quale il potere, l'autorità e i beni materiali sono direttamente o indirettamente concentrati nelle mani dell'uomo. Una violenza dunque che si esplica e si autoalimenta negli stereotipi di genere, nello sfruttamento lavorativo, nelle istituzioni, dalla scuola passando per la sanità e la medicalizzazione forzata del corpo della donna, fino alle istituzioni totali come i carceri e i CIE, passando anche qui dalle politiche securitarie che vengono sdoganate in nome della protezione delle donne italiane contro presunti aggressori stranieri. Questi sono stati appunto la definizione di violenza di genere da cui siamo partite. E poi abbiamo cercato diciamo di capire come si possa combattere contro la violenza, cosa vuol dire combattere contro la violenza sulle donne. A tal proposito, infatti, la notizia che abbiamo letto prima della ragazza bresciana che ha risposto in modo personale e disperato a una violenza che agiva su di lei non perché diciamo, aveva delle problematiche di violenza domestica con il compagno, ma proprio perché ha sentito su di lei il peso dello stereotipo sociale, no? Del ruolo che viene attribuito alla donna, per cui bisogna essere contente a tutti i costi della propria paternità, ma non solo, del sacrificio che si mette in campo per essere madri, figlie e compagne eccellenti. And said that we were through, but I don't care, I don't care no more. Once upon a time I did, you done me wrong, honey, and I don't care no more. When I know I done my very best to try to bring you happiness, that's why I don't care. Proprio per riallacciarmi al discorso sulla violenza, e perché in realtà come coordinamento abbiamo ragionato sul fatto che ovviamente combattere la violenza non è una battaglia che va affrontata solo a livello personale, e volevamo dare degli spunti appunto su quella che era stata la nostra riflessione e su quelli che erano stati gli strumenti che pensiamo siano necessari per combattere la violenza sulle donne. Ovviamente abbiamo pensato che secondo il nostro percorso politico ovviamente i due strumenti fondamentali sono l'autodifesa e l'auto-organizzazione, però vi volevo insomma dire quali sono delle forme, insomma, di modalità di per combattere appunto la violenza, combattere i meccanismi che in questa configurazione sociale incentivano ed aumentano la possibilità di violenza. Per questo l'autodeterminazione delle donne non può essere svincolata da una critica radicale al sistema capitalistico e neoliberista. La società neoliberista, infatti, sdogana la violenza gerarchica per favorire rapporti di subordinazione e mercificazione. La liberazione della donna è inseparabile dalla lotta di classe, dalla lotta per una società dove non ci sia sfruttamento, e non può significare in alcun modo partecipazione alla gestione dell'attuale sistema di potere. Per questo riteniamo che l'emancipazione sia stato uno strumento di pacificazione sociale. Molte donne sono diventate attraverso l'emancipazione parte integrante e attiva del sistema di potere, della società patriarcale e del relativo controllo sociale, mentre prima perpetuavano il dominio patriarcale con l'accettazione passiva e o partecipe dei ruoli loro assegnati. Ora agiscono direttamente violenza contro le altre donne. Volevamo in ogni caso darvi il nostro l'indirizzo web del nostro blog www.coordinamenta.noblogs.org, su cui potete andare a trovare insomma un po' tutto quello che diciamo e quello che facciamo, e poi darvi il nostro indirizzo mail, che è coordinamenta@autistiche.org. E questo perché ci farebbe molto piacere se vi viene in mente qualche cosa, se volete che discutiamo di qualche cosa, se qualche notizia vi ha particolarmente colpita e vorreste parlarne con noi. Ci farebbe molto piacere che ci scriveste durante la settimana e ce lo faceste sapere, e noi chiaramente, nei limiti del possibile, perché siamo sommersi dalle notizie e siamo bombardate noi come voi, però siccome ci sono degli aspetti particolarmente importanti e dei casi particolarmente significativi nel nostro percorso e che magari stanno particolarmente a cuore anche a voi, scriveteci. A una specificazione, perché magari ci si può sbagliare, sia nel nostro indirizzo del blog sia nel nostro indirizzo di posta, coordinamenta è scritta con due O. Per chiudere, parlando di violenza, volevamo leggervi una parte di una lettera di una compagna che è reclusa nel carcere di Re Bibbia, e proprio perché appunto parlando di violenza volevamo darvi una testimonianza di tutte coloro e tutti coloro che subiscono la violenza nello Stato, di tutti coloro e tutte coloro che cercano di cambiare, di lottare per modificare la società in cui ci troviamo e che si trovano a subire, a contrastare la violenza che mette in campo lo Stato. E vi leggiamo quindi una parte di questa lettera, una lettera di questa compagna, Giulia, che è stata arrestata con delle motivazioni insignificanti all'interno di operazioni repressive che sono state condotte contro anarchici e anarchiche. Terrorista è chi rinchiude, chi manganella, chi devasta. E allora, parafrasando una canzone, che tremino i potenti di fronte agli animi fieri di tutte queste terroriste, che non hanno paura di lottare contro tutto ciò che realmente genera e rinvigorisce il terrore, la discriminazione, la diseguaglianza, la devastazione, lo sfruttamento. Che tremino, che abbiano paura. La loro vera paura è che sanno che qualsiasi gabbia mi metteranno intorno, che sia cella, che sia lavoro, che sia diffamazione, che sia isolamento, niente mi toglierà la voglia di romperla e di continuare a guardare il mondo con gli occhi lucidi, aspri, vitali e liberi. Che si arrovellino pure il cervello per trovare maglie migliori per le mie catene, io sarò più forte, perché ho in me una coscienza, una consapevolezza di quello che sono, che non intaccheranno mai. Che si specializzino nell'arte sopraffina, vera arte dei nostri tempi, del reinventare un significato per le parole, laddove guerra diventa missione di pace, laddove bombe sono intelligenti e non pericolose, e gli orecchini di rame e le lampadine pericolosi esplosivi. Laddove il terrorismo non è quello di chi rinchiude, uccide, reprime, ma quello di chi critica tutto ciò. Laddove la devastazione si chiama civilizzazione, progresso, ricchezza. Laddove non accettare lo status quo dell'ingiustizia è sinonimo di pericolosità sociale. Laddove gli immigrati carcerati si chiamano ospiti. Le mie parole non hanno il peso della storia dei nostri tempi, della rabbia, dell'insolenza, della voglia di abbattere tutta la crudeltà, la ferocia della gabbia che rinchiude la vita di tutti noi, fuori e dentro le galere, schiavi di una vita che non vogliamo, di un mondo che cade a pezzi, che chiama i suoi residui progresso. Dalla parte di chi lotta, di chi non si inchina, le bombe e il terrore li seminano lo Stato, il potere e la nostra santa democrazia. Per la libertà di tutte e tutti, una donna libera, Giulia.